viene ascritta agli imperatori Leone Isaurico e Costantino Copronimo, imperatori d'Oriente in epoca di cesaropapismo, intorno ai primi anni del 700, viene ascritta a costoro la colpa di aver funestato il loro impero di contese e di stragi in nome dell'iconoclastia. Nel 726 Costantino riunì a Costantinopoli 300 vescovi in concilio affinché decretassero la proibizione del culto delle immagini. La decisione fu avversata in quell'Occidente in cui da 400 anni ormai, ovvero dai tempi di Costantino il Furbo, non si badava ai mezzi pur di ottenere conversioni al cristianesimo, secondo l'assioma che garantiva l'esercizio duraturo del potere a chi trasformasse i sudditi in fedeli. Lo scontro lasciò sul terreno molte vittime e, nonostante la vittoria degli iconoduli, o iconolatri, mai si risolse del tutto. Il partito iconoclasta, minoritario quanto si vuole, è stato più volte lì per rialzare la testa. Si rifacesse vivo, potrei essere tentato di iscrivermici. L'altro giorno a Firenze, sul Ponte Vecchio, Ridley Scott sta tentando di effettuare alcune riprese del suo prossimo film Hannibal, un'iterazione del Silenzio degli Innocenti di Jonathan Demme. Dispone dunque i suoi personaggi e si accinge al Chuck quando intervengono alcuni negozianti e quattro consiglieri comunali per impedirlo. Non è che siano contrari alla riciclatura dei film di successo, no, ma costoro eccepiscono sul fatto che nella scena che si dovrebbe girare figurino alcuni extracomunitari che, stesi i loro tappetini, offrono le merci ai passanti. L'immagine di Firenze, a parer loro, ne uscirebbe deturpata e chiamano la cosiddetta realtà come testimone. Allora, sul Ponte Vecchio, infatti, no, senza la troupe di Ridley Scott non ci sarebbe ombra di extracomunitario. È vero che prima c'erano ed è vero che è stata la polizia a dissuaderli più con le cattive che con le buone, ma è anche vero che ora come ora non ci sono. Interviene il saggio e prudente produttore del film e la scena viene cambiata. Gli extracomunitari offrono le loro merci, non so se dopo averle posate su regolari banchetti, e la protesta rientra. I quattro consiglieri comunali alfieri dell'immagine di Firenze sono tutti del polo. L'extracomunitario, cittadino perennemente intruso, allo stato brado com'è sul ponte, svalorizzerebbe la città di cui il ponte fa parte, o meglio, il suo mercato povero svalorizzerebbe il mercato ricco dei fiorentini legittimi. Il polo allora protegge noi tutti dalle narrazioni ideologicamente compromettenti. Qui non si tratta di immagini sacre, ma il procedimento è uguale. Qualsiasi immagine, un disegno, una fotografia, un filmato, è stata eseguita in un preciso momento e in un preciso luogo. Vi sono anche immagini per le quali dovrebbe valere una sorta di patto implicito fra chi le osserva e chi le produce, o un patto che assegna loro una funzione, come dire, non referenziale, come poteva essere, non so, l'immagine di un unicorno o del mostro di Alien. Sia o non sia di fantasia, comunque, all'immagine viene assegnata una sua singolarità, e questa singolarità è costruita mentalmente tramite l'inserimento in un posto e in un momento. Capisco gli iconoclasti allorché mi rendo conto che, per dabbenaggine o per tornaconto personale, raramente gli esseri umani si fermano qui. Spesso, troppo spesso, l'assegnazione del posto e del momento viene dimenticata e la singolarità viene ripetutamente estesa. Le immagini sacre servono allora a guarire il malato e a confortare il sano, come avrebbero fatto gli dèi o le persone rappresentate. L'immagine di Firenze con gli extracomunitari per una volta sul Ponte Vecchio è cristallizzata e generalizzata fino al punto di rappresentare una Firenze sempre e comunque in mano agli extracomunitari. A Firenze ci sono gli extracomunitari una volta, e in quanto sono cristallizzati in un'immagine, ecco che gli extracomunitari ci sarebbero sempre. È un'argomentazione impropria che dovrebbe andare a disdoro di chi la fa e di chi ci casca, ma tant'è, ingiustificatamente trova i suoi estimatori. La responsabilità dovrebbe ricadere ovviamente su chi generalizza all'atto dell'osservazione, ma sentendosi indifeso, chi produce l'immagine preferisce correggerla alla radice, interviene prima che essa venga prodotta, confezionata e venduta, insomma impone modelli grazie al proprio potere. Giuseppe Pelizza è nato in provincia di Alessandria, a Volpedo, nel 1868. Ha dipinto il Quarto Stato nel 1901. Bruciava ancora il ricordo della feroce repressione del popolo milanese da parte del generale Bava Beccaris. E Pelizza da Volpedo, dedicò al proletariato, cioè al Quarto Stato, dopo quello dei nobili, del clero e della borghesia, gli dedicò un quadro di grande impatto emotivo. Due lavoratori e una donna con un bambino in braccio che camminano davanti alla massa compatta dei loro compagni, impavidi e fieri, decisi ad ottenere perlomeno il diritto alla sopravvivenza. Questo quadro è a Palazzo Marino, lontano ormai anni luce dalla sua singolarità. Tanto è vero che nella appena trascorsa campagna elettorale c'è stato un candidato che, all'insegna dello slogan «La politica torna in piazza», si è fatto fare un manifesto in cui lui, senza cravatta, con gilet e giacca tenuta dietro sulla spalla destra, è in persona il personaggio centrale del quadro di Pelizza. Un buon incentivo a iscriversi al partito degli iconoclasti dovrebbe essere l'informazione che costui era un candidato di Alleanza Nazionale. Lo svillaneggiamento di ciò che lega questa immagine ad un posto e ad un momento ben precisi, d'altronde, è ancora più evidente se ne analizziamo la clonatura realizzata per la pubblicità del Lavazza Espresso Point. Il capopopolo ha messo la cravatta, la donna al suo fianco è tutta intagliorata e al posto del bimbo in fasce porta in braccio la macchinetta del caffè. Dietro avanza una massa di colletti bianchi, entusiasti della buona pausa caffè, che lo slogan assicura essere loro diritto. Anzi, non facendo loro mancare il surrogato della solidarietà proletaria, il caffè vi è definito come un ideale compagno di lavoro. Ci si invita dunque a generalizzare, a vedere nel candidato di Alleanza Nazionale e nella sorridente cosmologia sociale del caffè Lavazza l'analogo di quei proletari del 1901, sperando che il quadro valoriale guadagnato da quelli possa essere sfruttato da questi. Beh, si sappia resistere a questi inviti, si sappia rifiutare la surrettizia pedagogia delle narrazioni e delle immagini, si eviti gli indi negozietti del Ponte Vecchio, non si faccia quel turismo che non vorremmo fosse fatto a noi, e si utilizzi la pausa caffè per diffondere la consapevolezza della propria subordinazione. I treni giapponesi, si sa, sono i più veloci. I lavoratori giapponesi, si sa, sono i più stacanovisti, portati a esempio dal potere capitalistico mondiale. Preoccupa le compagnie ferroviarie, tuttavia, preoccupa il fatto che sempre più tanti di questi indefessi lavoratori sui treni non ci salgano, ma sotto i treni ci si buttino. Allo scopo di dissuadere dal suicidio, dunque, in questi giorni, si è fatto ricorso allo stratagemma di montare grandi specchi nelle stazioni. Altro argomento per iconoclasti radicali. Secondo gli psicologi, l'aspirante suicida che veda la propria immagine riflessa in uno specchio ci ripensa, si dà una giustatina, si attacca al cellulare per dire a casa di buttare giù lo sushi e tutto finisce lì. In proposito ai miei dubbi, è per l'appunto ogni volta che mi vedo bene in uno specchio che mi viene da chiedermi se non sia ora di farla finita. In Assassino nella cattedrale di Colin Dexter, vecchio libro bello del 79, si discetta sociologicamente sul fatto che i miopi si tolgono sempre gli occhiali e li mettono in tasca prima di uccidersi lanciandosi nel vuoto. Il desiderio di ordine di sé, quel desiderio che si soddisfa al massimo grado per l'appunto di fronte ad uno specchio, dunque il desiderio di ordine di sé non disincentiva il suicidio, anzi ne potrebbe costituire il prodromo.